Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 8 minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria per quello che riguarda i mercati, oggi meno tesi come indici, perdere 0,5 punto percentuale Milano, lo 0,13% Parigi, lo 0,50% Francoforte, e Londra invece fa peggio della media, perde l'1,60%. Però resta il tema delle tensioni. Da un lato sì, c'è la vicenda argentina e turca, ma oggi soffre soprattutto la Turchia, la cui valuta locale, la lira, è in caduta libera ai minimi storici sul dollaro, anche a fronte delle incertezze politiche che attraversano il paese, ma del forte deficit delle partite correnti, il 7,5% del PIL. La Banca Centrale Turca ha annunciato che domani sera terrà una riunione di emergenza per vagliare contromisure alla crisi valutaria. Si inizia a sentire anche un effetto contagio in Grecia, dove sono saliti i rendimenti dei titoli azionari. Resta sullo sfondo il timore di un nuovo default, di un nuovo fallimento dell'Argentina. Questa mattina molto negativa a Tokyo, meno 2,5%, ma al di là dell'Argentina e della Turchia c'è anche un altro tema di cui parleremo sempre all'interno di questo ragionamento nella seconda ora del programma, e mi riferisco alla Banca Centrale Americana, la Federal Reserve. Da mesi attendiamo di sapere quando inizierà il tapering della Fed, che tradotto in italiano vuol dire sostanzialmente quando la Banca Centrale Americana inizierà a ridurre lo stampaggio dei dollari. È iniziato, l'America più fino a qualche settimana fa stampava ogni mese circa tra i 75 e gli 85 miliardi di dollari. Come lo faceva? Lo faceva con il quantitative easing, ossia l'America emetteva titoli di Stato che venivano comprati dalla sua banca centrale. E com'è che li compra una banca centrale? Stampando moneta, questo in soldoni. Dopodomani la Federal Reserve potrebbe decidere una nuova riduzione degli acquisti di titoli, scendendo da 75 miliardi a 65 miliardi. Avrà delle ripercussioni sui mercati, ripeto, però per ora non le vediamo in maniera così tesa. Creerà comunque un riflusso di capitali verso i paesi più sicuri, tra cui Svizzera e Germania, ma soprattutto sarà interessante vedere quale sarà la reazione nel medio termine dei mercati finanziari, perché vuol dire drenare liquidità, questo insomma in estrema sostanza. Di questo, delle tensioni internazionali, ci occuperemo nella seconda ora del programma. Partiremo invece in apertura sull'Italia, sia per capire come il nostro paese si stia attrezzando verso quella che è una nuova linea di condotta dell'Europa. L'Europa, ne ha parlato a lungo il Sole 24 Ore, sta lanciando un nuovo piano che vorrebbe porre al centro, oltre che i conti pubblici, anche la manifattura e quindi la reindustrializzazione, chiamiamola così, del continente, dell'area euro soprattutto. Se ne discute anche tra poco a Ignazio Lombard per un convegno dell'Aspen Institute, e cerchiamo di capire quali siano le direttrici. Perché lo dico? Perché i due paesi a maggiore intensità manifatturiera sono la Germania sulle grandi imprese, e poi invece l'Italia sulle piccole e medie imprese. Per cui avere un'Europa che pone al centro non solo i servizi ma anche e soprattutto la manifattura vorrebbe dire avere un'Europa che pone al centro l'Italia, oltre che la Germania, nel suo futuro. I mercati, già accennavo, cali intorno al 0,5 punto percentuale. A Milano guadagna Telecom Italia più 2,20%, Fiat più 1,70%, CNH più 1,5%, Saipem più 1,1%, Mediaset più 1%, e Intesa San Paolo più 0,60%, GTEC più 0,90%. Cala, e non di poco, ma ci sono notizie del fine settimana, l'aumento di capitale, il Banco Popolare perde il 15,31% dopo l'annuncio dell'aumento di capitale da 1,5 miliardi. La Popolare Emilia Romagna perde l'8,30%, IUX il 5,70%, Pop Milano il 5,50%. E ancora perdono oggi soprattutto le popolari, UbiBanca meno 5,14%, ma anche il Monte dei Paschi perde il 4%, Ferragamo 1,80%, Tenaris l'1,70%. 349-238-6666 è il numero per i vostri sms. Rapidamente le notizie in breve. Allora, al di là delle tensioni argentine, turche e anche in Grecia, oggi dalla Germania arriva un indice invece positivo, è quello che misura la fiducia delle imprese, migliore delle stime degli economisti, è salito l'indice IFO a 110,6 punti. Mentre la Bundesbank, la banca centrale tedesca, suggerisce, mettiamola così, un'imposta patrimoniale una tantum per i paesi dell'area euro che rischiano il default, il fallimento. Ora, io, a parte forse la Grecia, ma su cui è già intervenuta la Troika, vorrei sapere dalla Bundesbank quali sono i paesi che rischiano il fallimento, perché dice meglio rispetto ai salvataggi, te credo, perché i salvataggi sono anche fatti con soldi tedeschi, meglio una patrimoniale una tantum non priva di rischi che dovrebbe essere adottata solo in ultima istanza. No, dico, siccome col massimo rispetto, però scusatemi, quando la banca centrale, e si chiama Bundesbank, non è l'ultima delle banche centrali di un paese dell'area euro, suggerisce la patrimoniale nel caso di un rischio di fallimento di uno stato dell'area euro, a mio avviso, cioè, o specifica dove, quali paesi vede più in difficoltà, perché è inutile dire nel caso eccezionale di uno stato che rischia l'insolvenza, ma ci sono, cioè, se no stai facendo così accademia, teoria, pur parler, o se no stai semplicemente facendo una gufata. Primo gufo dell'anno, forse no, sì, forse sì, chiedo aiuto in regia, però forse è il secondo gufo dell'anno, se lo becca la Bundesbank, che ripeto, non è tempo di accademia, non è tempo di ragionamenti teorici, se la Bundesbank è preoccupata per la tenuta dei conti pubblici a livello di parlare di default di un paese dell'area euro, lo dica chiaramente, se no stia zitta e si occupi invece di come ha gestito il salvataggio delle casse di risparmio territoriale delle Landesbank tedesche e anche magari di Deutsche Bank, no? Vabbè, veniamo all'Italia, Italia e Spagna, una volta si chiama Francia e Spagna perché se magna, no, Italia e Spagna guardano il futuro con ottimismo e oggi nell'incontro tra il premier Enrico Letta con il premier spagnolo Mariano Rajoy, il premier Letta ha detto è uno dei primi anni, comunque il 2014 è un anno che sia per Spagna che per Italia inizia senza la tempesta finanziaria addosso. Questo anno 2014 inizia sia per la Spagna sia per l'Italia senza avere addosso la tempesta finanziaria come leitmotiv delle nostre azioni. La Spagna e l'Italia hanno avuto alla fine dell'anno scorso, quindi nell'ultimo trimestre del 2013, dati che confermano la ripresa della crescita. E ci aspettiamo nell'anno 2014 un anno di crescita sia in Spagna che in Italia. Questo è sicuramente per noi un elemento importante ed è un elemento che vogliamo consegnare all'intera Unione Europea, perché riteniamo che la legislatura che si apre dopo le elezioni europee di maggio possa essere la legislatura della crescita. We'll be right back. Intanto, mentre oggi la Guardia di Finanza fa sapere che evasori e furbetti dell'ISE sottraggono ogni anno alle famiglie oneste 2 miliardi di euro, cioè chi finge di avere una situazione economica vicina alla povertà e comunque molto debole, quindi ha diritto ai benefici dagli asili nido alle scuole, sottrae a chi veramente ha bisogno 2 miliardi di euro l'anno. E per chi non paga le tasse, questa è la beffa: oltre che non paga le tasse, hai anche i vantaggi perché dichiari un reddito bassissimo. C'è un vantaggio fino al 70%. Questo nel giorno in cui la Banca d'Italia ci fa sapere che nel 10% delle famiglie italiane si concentra quasi metà della ricchezza italiana. Sale dal 2,8 al 4% invece la quota di famiglie con ricchezza negativa. Quindi c'è una ricchezza che viene via via concentrandosi sempre di più in alcuni nuclei familiari. Io non so se poi questo possa portare un ragionamento sulla patrimoniale, non mi interessa in questo momento, però è un dato di fatto, lo dice la Banca d'Italia, che a fronte di un aumento della povertà o di un calo del reddito, del potere d'acquisto di molte famiglie, c'è una quota, il 10%, che vede aumentare il suo reddito, la sua ricchezza. Facciamoci una riflessione, anche politica, che se sono il 10% hanno il 10% dei voti. Peggiora il bilancio delle famiglie, dice la Banca d'Italia, meno 7,3%, cala anche la ricchezza complessiva del 7%, il tutto nel giorno in cui poco fa ha riparlato il presidente della Regione Sicilia Crocetta, che ha istituito una task force, per gestire l'emergenza scoppiata col blocco di oltre mezzo miliardo di euro per l'impugnativa della finanziaria. Ce ne siamo occupati la settimana scorsa. Comunque Crocetta poco fa ha detto che stanno facendo i conti, ci sono almeno 26.000 lavoratori di enti, consorzi e teatri pubblici a rischio licenziamento. Che cosa è successo? Sono per 30.000 regionali dipendenti della Regione Sicilia, non è arrivato lo stipendio a fine mese, cioè non arriverà lo stipendio a fine mese, ma soprattutto a questo si associano anche il personale del Parlamento siciliano, 250 persone alle quali bisogna aggiungere i pensionati e i 90 deputati regionali senza stipendi e indennità parlamentari. Il pagamento infatti potrà avvenire solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bilancio della regione, bloccato appunto dal ricorso, poiché l'assemblea attende il trasferimento dei 150 milioni di euro. Allora, non lo so se tra questo 10% di famiglie italiane che vedono aumentare la loro ricchezza ci sia anche il presidente dell'INPS Mastrapasqua. Antonio Mastrapasqua, lo avete letto sui giornali, indagato dalla Procura di Roma per l'accusa è cartelle cliniche truccate, fatture gonfiate per un giro d'affari di 85 milioni di euro, sostanzialmente 14 milioni di euro di rimborsi non dovuti ma chiesti alla Regione Lazio, 71 milioni derivanti da un presunto ingiusto vantaggio conseguito dall'ospedale israelitico di cui Mastrapasqua è direttore generale dal 2011 al 2013. In totale, secondo l'accusa, sono 12.164 le schede di dimissioni falsificate per ottenere rimborsi gonfiati. Il rapporto dell'Agenzia di Controllo della Sanità sull'ospedale israelitico di Roma certificava un 94% di ricoveri incongrui e inappropriati. Si difende Mastrapasqua: nessun rilievo e interesse assumono nell'indagine il ruolo del presidente dell'INPS Mastrapasqua, né tantomeno quello di direttore generale dell'ospedale israelitico, in quanto i fatti ipotizzati attengono a condotte che sarebbero state poste in essere da alcuni dirigenti sanitari e non afferiscono né all'INPS né all'ospedale israelitico. Questa è la dichiarazione di Mastrapasqua. Io faccio però notare un'altra cosa, Mastrapasqua, perché obiettivamente non è periodo, non è aria. Così come valutazione non c'è nulla di illegale, però lei ha 24 incarichi, tra cui anche la direzione generale dell'ospedale israelitico di Roma, ma non le basta fare il presidente dell'INPS? Ma come fa? Io ho difficoltà a fare due cose nella vita, no, è estrema, nella mia vita professionale. Sarò obiettivamente non bravo come lei, ma c'è 24 incarichi per un totale di 1.200.000 euro di entrate al mese, ma lasci il posto a qualcun altro, tanto qualcuno bravo si trova in giro. 24, cioè lei è vicepresidente di Equitalia, ha ruoli dirigenziali in Italia Previdenti, in Eurospa, in Eurtel, in Eurocongressi Roma, in Coni Servizi S.P.A., in Autostrade per l'Italia, in Fandango, in Telecom Italia Media. Poi siede nei consigli di amministrazione di Quadrifoglio, Teleenergia, Loquendo, Aquadrom, Mediterranean Nautilus Italy, ADR Engineering, Consel, Groma, ESMA, ESMA Servizi, Telecontact Center e Idea Finmit SGR. Non è un po' tanto? Ma come fa? Cioè, o veramente sono incarichi così formali, allora magari vengono pagati troppo, o se no non ce la può fare. Lasci, c'è una disoccupazione ai massimi, lasci posto a qualcun altro. E anche per la sua allure, diciamo così, già fare il presidente dell'INPS con i conti dell'INPS, con le notizie che ogni tanto anche lei diffonde, è difficile. Glielo do come consiglio, non c'è niente di illegale, per carità, poi la procura di Roma andrà avanti in queste inchieste, vedrà se è coinvolto anche lei o no, ma è obiettivamente brutto da sentire. Va bene, poi parleremo degli altri temi. Adesso invece vorrei occuparmi da un lato di quello che il Sole 24 Ore continua a sottolineare da giorni, e cioè che c'è una tendenza in Europa a riportare al centro il manifatturiero, e qui l'esperienza americana, voglio dire, dovrebbe dare anche qualche lezione. In America è in corso un processo di reindustrializzazione dopo che negli anni 2000 molto si è dato in outsourcing fuori dagli Stati Uniti. In Cina abbiamo visto anche quello che emergeva da Davos, i paesi emergenti hanno qualche battuta d'arresto, la Cina ma non solo, e da Davos stesso si è detto probabilmente potrebbe esserci un percorso di ritorno della manifattura in Europa. L'Europa e l'Unione Europea ha questo piano che al di là del Fiscal Compact, che ripeto è un obbrobrio, spero che prima o poi qualcuno intervenga, ma un accordo, diciamo, per riportare al centro la manifattura, che è fondamentale per noi perché con la Germania siamo il paese più manifatturiero d'Europa. E se ne discuterà fra pochissimo in un convegno all'Aspen Institute all'Asso Lombarda a Milano, con un titolo che proprio c'entra questo tema, il nuovo manufacturing italiano tra l'esempio americano e i modelli asiatici. Perché è chiaro che non possiamo né copiare il modello asiatico né copiare totalmente il modello americano. Siamo in collegamento con il presidente della Asso Lombarda, nonché presidente del gruppo Techint, Gianfelice Rocca. Buonasera. Buonasera. Allora, dicevo che l'Europa ha dato un'indicazione in tal senso, speriamo che poi si concretizzi ancora di più, che si è accorta che l'Europa non può vivere di soli servizi, di banche, servizi e di export, mettiamola così, che occorre anche reindustrializzare questo continente, perché poi la manifattura vuol dire dipendenti, vuol dire occupati, vuol dire anche consumi interni. Rocca, cosa vuol dire tra l'esempio americano e i modelli asiatici? Cioè, quali sono, diciamo, i due casi che andrete a analizzare? Noi sappiamo che in questo momento il manifatturiero cinese nel corso degli ultimi anni è arrivato a essere il 25% della produzione manifatturiera del mondo. Per dare solo un'idea, Walmart compra 27 miliardi di dollari dalla Cina, cioè il manifatturiero cinese è diventato bilanciato dagli americani che hanno trasferito di tutto. Adesso si sta studiando negli Stati Uniti come ritornare ad avere un manifatturiero. Il rientro è basato molto su delle nuove tecnologie che consentono negli Stati Uniti produrre con robot, con nuovi meccanismi che facilitano il rientro negli Stati Uniti, ma gran parte della reindustrializzazione americana è basata sulla rivoluzione diciamo energetica, è l'industria chimica che torna negli Stati Uniti, l'industria energetica, gli investimenti sono sostanzialmente lì, e gli americani stanno da questo punto di vista riequilibrando la bilancia commerciale, che era negativa del 6% e quest'anno è del 2,7% negativa. Il modello europeo in mezzo a questo è un modello estremamente interessante, perché il nostro manifatturiero è molto sostanzialmente nel medium high tech, l'industria meccanica, il design e altre cose. Rappresenta in Italia il 94% dell'export, ma il 72% della ricerca italiana è nel manifatturiero. E ogni prodotto manifatturiero contiene almeno un 40% di servizi, quindi il manifatturiero è oggettivamente un oggetto interessantissimo. Per dare un'idea, la Germania oggi esporta più medium high tech, è cresciuto dal 66 al 71% a scapito del high tech, idem il Giappone, ha guadagnato 12 punti, idem gli Stati Uniti, idem l'Inghilterra. Cioè, questa produzione di nicchie metalmeccaniche, automobili sofisticate di lusso, macchine utensili, tessile sofisticato, rappresenta oggi un aggancio col futuro ed ha un'enorme profondità nel paese. Quando uno controlla, ad esempio, i fornitori del medium high tech della nostra industria meccanica, mediamente dove sono? Sono intorno alle aziende. Il codice postale dei fornitori è sostanzialmente intorno alle aziende, che non è vero per l'high tech. Quindi il riscoprire il ruolo di questo mondo che ci aggancia col futuro, che fra l'altro garantisce all'Italia un export che è cresciuto rispetto al picco del 2008, è un tema rilevantissimo perché è il nostro aggancio col futuro. Ecco, da questo punto di vista, lei come vede l'iniziativa europea? Perché poi non vorrei si traducesse in un nulla di fatto. Mi sembra che parlarne 4-5 anni fa era assolutamente da eretici. Adesso mi sembra che il ragionamento, vuoi perché appunto il modello americano è andato in una direzione, vuoi perché i paesi cosiddetti emergenti, a mio avviso ampiamente emersi, stanno dimostrando qualche difficoltà nel mantenere quei ritmi di crescita, possiamo anche dire per fortuna in alcuni casi. Secondo lei dall'Europa che cosa deve arrivare? Perché noi possiamo mettercela tutta, ma occorre, così come abbiamo fatto accordi sul 20-20-20 per le emissioni, oppure per il lavoro, poi il Trattato di Lisbona è andato a farsi benedire con la crisi. Penso, quale dovrebbe essere l'iniziativa di carattere anche politico dell'Unione Europea su questo? Mi sembra che l'Europa si rende conto, cosa che gli Stati Uniti hanno fatto da tempo, che una prima politica industriale riguarda il fair trade cosiddetto, cioè che il rapporto con gli altri paesi è un rapporto guidato da comportamenti normali e fair e che non causa dei danni eccessivi. Quindi le politiche commerciali, per dare un'idea, l'Europa oggi importa dalla Cina più di quanto importi negli Stati Uniti. E spesso uno subisce una concorrenza, questo è evidente in settori come quello siderurgico e in altri settori in cui Cina dà sussidi, trasforma i debiti, i crediti delle banche in capitale, quindi un primo grande... Diciamo che in Cina non c'è Basilea 3. Poi non c'è Basilea 3 e poi c'è un problema ambientale non da poco, lo vediamo tutti i giorni leggendo cosa sta succedendo a Pechino e in altre città. Quindi se noi pensiamo di poter competere in certi settori con paesi che hanno comportamenti completamente diversi, questo è impossibile. E infatti nascono, gli Stati Uniti in questo sono estremamente presenti nel limitare l'impatto di questo tipo di concorrenza. Questo lo fa il Messico, lo fa gli Stati Uniti, lo fa il Brasile, lo fa tutto il mondo. Quindi dobbiamo riprendere più in mano il nostro destino e lasciarlo meno a questo tipo di liberismo senza controllo. Poi ci sono dei temi grossissimi in cui l'Europa non è brillantissima, che proprio l'Italia non lo è per niente, che è avere un sistema, un ecosistema pro impresa. E questo è un tema che per noi è fondamentale: burocrazia, fisco, giustizia, lavoro, infrastrutture, energia, capitale umano, problemi senza i quali non c'è neanche il manifatturiero di sviluppo, perché sono problemi sostanziali. Poi c'è invece un tema molto interessante, che è come aiutiamo il manifatturiero a svilupparsi nei settori più promettenti del futuro. Si tratti della green economy piuttosto delle scienze della vita, della rivoluzione. E su questo l'Europa, attraverso Horizon 2020, ha dato un'indicazione di voler investire molte risorse che saranno europee lungo delle filiere che si occupano di questi settori. E qui l'Italia deve fare una politica industriale, nel senso che deve allinearsi a queste challenges europee per competere in questi settori in cui ha da giocare una partita, per accrescere la sua presenza in questi settori che crescono. E su questo c'è molto da fare ed è oggetto anche di questo convegno, in cui si deve vedere quali politiche possono aiutare le politiche industriali, che sembrano una parola nel passato bandita e oggi invece... Sì, ma è anche per questo che ci ritroviamo in questa situazione, perché una volta tirava solo la finanza e chi faceva industria e manifatturiero era old economy, maledetto chi ha inventato il termine old and new economy, perché poi abbiamo visto cosa è successo. A nostro avviso c'è l'economy e basta, new e old non c'entra. Però mi dico un'ultima cosa, Rocca, queste sono le richieste che voi avete per l'Europa, innegabile, io dicevo come battuta, in Cina non c'è Basilea 3, ma soprattutto non c'è neanche un mondo bancario. Adesso non voglio la protesta del console cinese, ma insomma le banche cinesi, ecco, diciamo, hanno degli aiuti di Stato delle volte, comunque non hanno i bilanci proprio come li facciamo noi, mettiamola in questo modo, dai, no. Cerco di stare più morbido possibile. Una banca europea con quei bilanci lì, con quell'esposizione lì, con quel rapporto tra prestiti e capitali, una banca europea non si è mai vista in quel modo. Detto questo, però, voi avete anche, e sono un po' le condizioni ambientali su cui molto abbiamo insistito, perché non è solo il tasso di inquinamento che ormai in Cina ha raggiunto livelli inaccettabili per gli stessi cinesi, lo dico in maniera molto trasparente, ci sono anche le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori. Detto ciò, però, voi avete anche delle richieste da fare al governo, nel senso che l'Europa deve dare delle linee guida, però non è che l'Europa possa sburocratizzare l'Italia, perché altri paesi sono molto meno burocratizzati di noi e molto più efficienti, pur avendo l'euro, pur restando in Europa. Che cosa, e anche il tema fiscale della tassazione, non è un tema su cui l'Europa può intervenire. L'Europa interviene al massimo sui bilanci, ma non sul carico fiscale, può suggerire. Ecco, che cosa chiedete invece al governo Letta? Noi chiediamo, ovviamente sono cose che abbiamo chiesto da tempo, ci sono quelle che io chiamo condizioni abilitanti per fare impresa. Ovviamente prima ancora che una riduzione di un carico fiscale che ricordo essere largamente superiore a quello tedesco, soprattutto perché nei momenti in cui le aziende non vanno bene, l'IRAP, che è di fatto una tassa sul lavoro più che una tassa sul reddito, fa sì che le imprese pagano, qui in Lombardia abbiamo visto che circa un terzo delle imprese che paga l'80% del reddito di tasse, perché l'IRAP mangia in queste condizioni. Quindi abbiamo problemi di costo del lavoro, problemi, però tutta questa serie di problemi che difficilmente si risolvono se non si affronta strutturalmente con riforme strutturali la situazione che noi abbiamo. Noi inizialmente chiediamo certezza delle cose, certezze per esempio del fisco, cosa che in altri paesi si trova, perché quando uno è in Svizzera negozia con chiarezza con delle autorità che sono molto semplici, quando dicono che una cosa va bene non c'è nessuno che può contestare che vada bene. Questo in Italia è impossibile e questo vale per molti livelli di semplificazione e di burocrazia. E quindi il primo tema è riordinarsi l'organizzazione in cui siamo, perché questo è a costo zero. E quindi se noi invece andiamo subito a chiedere spartizioni di uno Stato che non ha soldi, qualcosa si può ottenere, ma si può ottenere in tempi brevi relativamente poco, mentre noi dobbiamo lavorare per avere un'organizzazione che sia civilmente comparabile con quella degli altri paesi, i migliori paesi e i più semplici dell'Europa. Mi dica una cosa, ma visto che oggi la Bundesbank dice nel caso di alcuni paesi europei fossero a rischio fallimento, io non ho ancora capito chi, meglio la patrimoniale di un aiuto europeo, ma lei ritiene la patrimoniale a fronte chiaramente di un calo delle tasse su imprese e lavoratori una via percorribile o no? Ma io ho già detto nel passato che tutto, certamente oggi noi dovremmo aumentare le tasse, noi dovremmo, se dobbiamo tenere le tasse a livello uguale, aumentare le tasse sul patrimonio, diminuire le tasse sul lavoro, perché in questo modo diciamo si riduce la propensione a fare il rentier e aumenta, esatto, la propensione a lavorare e a fare impresa. Questo è evidente. Il tema di fondo è che non devono aumentare le tasse nel suo insieme, perché in qualche modo dietro questa idea che il patrimonio sia un accumulato negativo, il patrimonio è il frutto di lavoro, non è il frutto. No, il problema è, guardi Rocco, io sono d'accordo con lei, perché un conto è dire riduciamo l'IRAP di 10 punti, facciamo una patrimoniale, una tantum, una mini patrimoniale, un conto. Temo con questo Stato che poi la patrimoniale possa rischiare di diventare quello che sono le accise sulla benzina, paghiamo ancora quelle della guerra, della crisi di Suez e del terremoto nel Belice, cioè che tu non diminuisci l'IRAP e mi aggiungi la patrimoniale, allora lì non ci capiamo più. Per mantenere l'inefficienza dello Stato, esatto, che ha mille sovrapposizioni, che fa uno costo delle regioni e un costo dello Stato centrale, che ha un'infinità di inefficienze. Tutte le prelievo che noi facciamo dalle casse dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, se finisce a finanziare l'inefficienza, è distruzione di lavoro, di ricchezza, di futuro. Ci mancherebbe. Grazie, e vedremo poi che cosa emergerà da questo confronto. Ripeto, noi cerchiamo di anticipare anche i temi. Abbiamo parlato per anni di un'Europa che dimenticava il manifatturiero. Ha ragione chi scrive al 349-238-6666 e anche su Facebook, alla pagina di Focus Economia, che nel passato furono i paesi del nord ad avere un grosso interesse nel non, diciamo, contrastare il manifatturiero cinese, o perché sappiamo che purtroppo l'Europa da questo punto è un po' diversa. Al nord tendono a delocalizzare molto di più e ad avere meno manifattura di base come abbiamo noi, e anche meno distretti industriali, meno manifattura di qualità. Però adesso mi sembra che, insomma, il ragionamento coinvolga l'intera Europa. È verissimo che nel passato il nord Europa fu molto molto più prudente, perché i grandi gruppi del nord Europa producono spesso in Cina, non solo loro ma anche loro soprattutto. Speriamo appunto che questa tendenza diventi un vero e proprio percorso, perché ci si può anche rivedere sugli errori intrapresi, e ripeto, il fatto che lo faccia un paese che sembrava aver abbandonato per sempre il manifatturiero come gli Stati Uniti, la dice lunga. Grazie al presidente di Assolombarda, nonché presidente del gruppo Techint, Gianfelice Rocca. Adesso andiamo col metro, la pubblicità, siamo anche in ritardo, la borsa ha chiuso con un calo dello 0,44%, meno 0,40 a Parigi, meno 0,17 in questo momento New York, meno 1,5 Londra. Ricordo, visto che molti mi chiedete sul rientro dei capitali, che domani il Sole 24 Ore avrà uno speciale con indicazioni per l'applicazione della voluntary disclosure, cioè su cosa prevede la normativa sul rientro dei capitali all'estero. La possibilità è stata introdotta dall'ultimo Consiglio dei Ministri venerdì scorso. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare di borsa, poi ci collegheremo con la nostra Raffaella Calandra, che da questa mattina che sta girando le aziende del mondenese. Devo dire anche qui, non voglio fare una polemica al giorno, però una insensibilità da parte del governo, tutti a parlare della De Girolamo, ho capito, ma guarda, ci sono più di 1000 imprese nel mondenese sott'acqua dopo che hanno già avuto il terremoto. Non dico che, cioè, a parte che poteva andarci anche il premier Enrico Letta, ma insomma Zanonato, tra una polemica e l'altra con Zaia e con la governatrice della Serracchiana del Friuli, cioè, qualcuno vada a visitare queste aziende, ma io non so. Mastra Pasqua, visto che lei ha 24 incariche, se ne pigli pure un'altra, faccio il commissario delle aziende del modenese, tanto lei è Superman, riesce a fare tutto, c'ha 24 incarichi, guadagna 1.200.000 euro, stando le cifre, al mese. Vada lì e faccia anche un'operazione così di immagine, al di là delle inchieste della magistratura. Livia Zancaner, Radio Colli, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. E buon anno, è la prima volta che ci sei, così ormai ho una memoria azzerata alla singola puntata. Sì, in realtà sì, è vero. Ah, vedi che ancora ce la faccio. Allora, Livia, meno 0,44% Milano, meno 0,40% Parigi, meno 0,46% Francoforte, meno 1,60% Londra e invariata adesso l'America. Parleremo più avanti delle tensioni ancora sul mercati valutari, Argentina, ma oggi anche sopra tutto Turchia e poi il tapering della Federal Reserve. Da noi però devo dire che la notizia più forte forse è quella di carattere locale, o meglio popolare, e cioè l'annuncio abbastanza sorpresa che il Banco Popolare ha fatto di un aumento di capitale da 1,5 miliardi. Che cosa è scattato come ragionamento? Il Banco Popolare ha perso il 15% oggi, e vabbè, perché l'aumento di capitale in questo caso va a diluire le quote dei soci, quindi aumento di capitale non per fare delle acquisizioni importanti, ma per rimpinguare il patrimonio. Ma il ragionamento che fa qual è? Allora, il ragionamento che hanno fatto alcuni analisti e gli operatori di mercato è che l'annuncio del Banco Popolare potrebbero indurre gli altri istituti bancari a seguire la stessa strada, e gli analisti indicano in primis la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, che quindi ha perso il 7,9%, e il Credito Valtellinese, che ha perso il 7% circa, e ne indicano anche gli importi, ovvero 500 milioni per la Popolare dell'Emilia Romagna e 300 milioni per il Credito Valtellinese. Come notiamo, invece, ha resistito Intesa San Paolo, ha chiuso in positivo con un rialzo dello 0,78%, proprio perché si tratta di una banca che al momento non ha motivi di problemi di ricapitalizzazione, quindi è stata premiata dal mercato. Leggermente diverso il caso della Popolare di Milano, che ha perso il 5,6%. Venerdì vi è stato l'annuncio relativo al fatto che l'Invest Industry di Andrea Bonomi uscirà dal capitale della banca, e quindi il mercato ha reagito male, facendo perdere al titolo quasi il 6%. Quindi il ragionamento è soprattutto sulle popolari, cioè il credito valtellinese ha lo stesso statuto delle popolari, è sul mondo delle popolari, non sul, diciamo così, le grandi banche. Sì, assolutamente sì, il ragionamento che hanno fatto oggi analisti ed operatori è sulle banche popolari e quindi bene o male sulle banche di minori dimensioni. Ancora, tra gli altri settori, che succede su UX? Allora, UX bisogna ricordare che ha chiuso il 2013 con un rialzo del 168% ed è stato il miglior titolo su FTSE MIB. Da quel momento sono iniziate le vendite, se notiamo, dal massimo toccato il 3 gennaio il titolo ha perso il 24%, quindi gli operatori parlano di realizzi, alcuni esperti in analisi tecnica azzardano anche che sia possibile una discesa intorno ai 22 euro, cioè sui minimi toccati ad agosto e ottobre, ma ovviamente sarà solo nei prossimi giorni che potremo vedere se questo succederà. Ancora, intanto diamo anche le variazioni percentuali, UX meno 5-60%, volete di nuovo le banche, va bene, Banco Popolare meno 15, ma soprattutto Emilia Romagna meno 7,90, Pop Milano meno 5,60, Ubibanca meno 5,14, Monte dei Paschi meno 4,30%, il Monte dei Paschi forse è l'unica delle banche non popolari a perdere così tanto, Olivia? Sì, diciamo ha perso appunto, come dicevi tu, il 4,3%, qui ovviamente come sappiamo vi è tutta la questione legata all'aumento di capitale, quindi probabilmente i timori si estendono anche alla banca senese. Allora, il traffico adesso e poi gli altri titoli a partire da Telecom Italia più 2,52%, oggi 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Progetto Fuoco, Fiera di Verona 19-23 febbraio. Progettofuoco.it vi presenta Strade in diretta. Buonasera, in primo piano il maltempo in Abruzzo a causa delle forti nevicate che hanno colpito la 24 Roma Teramo e la 25 Torano Pescara, e per consentire una più efficace azione dei mezzi antineve è stata disposta la regolazione del traffico per tutti i veicoli sulla 24 tra Castelmadama e Teramo e sulla 25 tra Torano e Chieti. Sul resto della rete traffico intenso in uscita dalle grandi città segnaliamo 2 chilometri di coda per lavori sulla 22 del Brennero in direzione Modena tra Chiusa e Bolzano Nord. Si rallenta sulla 3 Salerno-Reggio Calabria per un incidente tra Serre e Vibo Valentia in direzione Salerno. È tutto, torniamo tra mezz'ora. Focus Economia. In diretta dicevamo di Telecom Italia ma anche di Fiat più 2% che fa il paio con CNH Industrial, Case New Holland più 1,60% ed Exor, la finanziaria di controllo, più 0,90%. Patuano, numero amministratore legato di Telecom, ha detto che non c'è nessuna ipotesi di aumento di capitale, forse per questo motivo che cresce il titolo, Olivia? Sì, assolutamente sì, come dicevi tu Patuano ha appunto smentito le voci relative a un possibile aumento di capitale, voci che la venerdì scorsa avevano fatto perdere terreno al titolo. Vi sono state anche altre indiscrezioni, ovvero che il magnate egiziano Naguib Saviris possa essere ancora interessato a Telecom, a Team Brasil o addirittura a tutta Telecom nel caso in cui Telefonica esca dal capitale, la società non venda gli asset brasiliani. Ancora per quello che riguarda appunto Fiat, dicevamo qui c'è l'attesa sui conti anche, no Olivia? Sì, Fiat, ricordiamo il 29 gennaio ci sono i conti di Chrysler, i conti di Fiat. L'attesa è relativa soprattutto alla proposta che verrà fatta al CDA dall'amministratore delegato Sergio Marchionne, in particolare sulla futura piazza di quotazione del nuovo gruppo Fiat Chrysler, che dovrebbe essere New York, e la sede della società, che stando alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, la sede fiscale appunto dovrebbe essere situata a Londra. Per quanto riguarda CNH Industrial, qui vi sono due fattori che hanno alimentato gli acquisti sul titolo: da una parte le attese per i conti giovedì di questa settimana e dall'altra risultati sopra le attese della concorrente Caterpillar. Ancora c'è chi mi chiede ancora della Luxottica che è scomparsa. No, perché è scomparsa? Scusatemi, fa più 0,18 oggi, non capisco la domanda, chiedo venia. Andiamo ai migliori e peggiori in assoluto: Bioera più 6,33, Credem più 5,16, BMW più 4%, Best Union Company più 3,20. Peggior titolo il Credito Bergamasco, meno 15,60, e poi il Banco Popolare. Immagino che anche sul Credito Bergamasco valgano i ragionamenti fatti prima sul Valtellinese, Pop Emilia Romagna, no? Sì, sì, sì, gli operatori individuano sempre lo stesso motivo, bisogna dire che appunto da quel discorso praticamente vengono escluse solo le grandi banche, Intesa, sì. San Paolo, Unicredito. E poi appunto il Valtellinese che perde quasi il 10%, meno 9,50%, grazie a Livia Zancaner. E poi volete altri titoli? Cofide cosa fa? Beh, Cofide perde, guadagna, scusatemi, il 2,20% e Borgosesi al 2,80%. Grazie Livia Zancanera, Radio Corriere, Sole 24 Ore. Stiamo nel modenese, vedo molti messaggi su Mastrapasqua. Allora, a noi risulta che la somma dei suoi 24 incarichi produca uno stipendio, non è il termine corretto, di 1.200.000 euro al mese, ma in realtà se moltiplichiamo questi soldi per l'anno e dividiamo per i 24 incarichi, vorrebbe dire che ogni incarico dà più o meno 530.000 euro l'anno. Beh, sai, sono 24, 50.000 euro di gettone ci può stare, non lo so, questo è quello che non risulta. Poi se ci vuole chiamare Master Pasqua e dice che abbiamo sbagliato tutto, che lo stipendio di 1.200.000 all'anno e non al mese, noi siamo contenti, insomma, contenti è una parola grossa, diciamo, prendiamo atto. Allora, ad una settimana dall'emergenza alluvione, la nostra Raffaella Calandra oggi ha compiuto un viaggio, un reportage a Modena, perché l'ondata di piena che si è rivestata sulla bassa ha allagato 10.000 ettari di territorio sia agricolo che urbanizzato. È riaperto il ponte di Bonporto sulla provinciale Bonporto e Ravarino, aperta anche la diramazione che collega il ponte con la provinciale Panaria Bassa, che è tutta adesso percorribile. Raffaella, oltre 5.000 lavoratori interessati e centinaia di aziende colpite. Il presidente della regione Emilia Romagna, Vasco Errani, ha varato due decreti, uno è una ricognizione e poi di bisogni finanziari, e poi il, per quello che riguarda il fabbisogno per gli interventi sul patrimonio privato e le attività economico-produttive, la circolare invita i comuni a pubblicare sui propri siti le apposite schede che i cittadini devono compilare e trasmettere ai comuni entro il 28 febbraio. Il ministro dell'Ambiente Andrea Orlando ha annunciato che il governo stanzierà 19 milioni per finanziare il nodo idraulico di Modena. Lo scorso venerdì il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge con il quale vengono posticipati di 6 mesi i termini per i versamenti e gli adempimenti tributari a carico dei soggetti aventi. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso dell'emergenza nel modenese. Due precisazioni: lo sappiamo benissimo che il Bergamasco appartiene al Banco Popolare, abbiamo chiesto chiaramente se il calo superiore anche quello del Banco Popolare fosse dovuto all'effetto Banco Popolare. In effetti uno perde il 14,90%, l'altro il 15,5%. Su Mastrapasqua, allora, fermo restando che non abbiamo in mano la dichiarazione dei redditi di Mastrapasqua, sui siti, perché ci siamo confrontati anche prima con Oscar Giannino, sui siti e in generale trovate di tutto, dal 1.200.000 euro al mese al 1.200.000 euro all'anno. A mio avviso, quello che cercavo di spiegare prima con il calcolo degli incarichi, 1.200.000 euro al mese sono tantini, diciamo sono troppi, anche per 24 incarichi. Dividendo il numero di incarichi per un anno vorrebbe dire che ogni incarico vale 500.000 euro all'anno, mi sembra tanto, per cui sono più portato a credere che sia 1.200.000 euro all'anno. Detto ciò, resta il tema dei 24 incarichi, di come faccio ad averli, e del fatto che insomma uno fa il presidente dell'INPS è già tanta roba, e quindi 1.200.000 euro all'anno fossero anche, come ritengo personalmente io, 1.200.000 euro all'anno, resta comunque un tema al di là dell'inchiesta della magistratura. Allora, Raffaella Calandra, che cosa hai riscontrato oggi? Nel senso che non è più emergenza nel senso stretto, ricordavo prima la riapertura del ponte di Bonporto e quant'altro, ma vorrei capire i danni per le imprese, oltre che per le famiglie, chiaramente. Allora, intanto sul fronte della stretta emergenza ci sono ancora parecchie persone, parecchie famiglie che abitano fuori casa, quindi ospiti di amici in altre case o anche in albergo a Modena, quindi c'è anche ancora una prima emergenza che non è del tutto chiusa. Dopodiché c'è il capitolo più forte e più significativo, che è quello dei danni. Danni alle case, ma soprattutto alle imprese, ancora una volta in questa zona, imprese già colpite dal terremoto. Ti colpisce innanzitutto arrivando qui vedere davanti a tutte le case e a tutta questa successione di capannoni cumuli di mobili, oppure se sono appunto uffici, cumuli di carte, scrivanie, sedie, cioè di tutto quello che era al primo piano e che ora invece è andato completamente distrutto perché l'acqua in alcune case è arrivata anche ad 1,80 m. Io sono a Bonporto e qui nella zona più bassa l'acqua è arrivata fino a 1,80 m, quindi i primi piani sono del tutto distrutti. Dopodiché ci sono i capannoni e le imprese più grandi che hanno adesso terminato di quasi del tutto di asciugare l'acqua, ma resta il fango, stanno piano piano ancora, diciamo, alle prese con il ripristino delle loro attività, però chiaramente ci sono i giorni di blocco che costano, ci sono le commesse che sono saltate, i macchinari che si sono rotti, che quindi che vanno sostituiti, e questo cade nel momento proprio in cui stavano appena finendo di presentare tutte le domande per i risarcimenti per il terremoto, quindi è stato davvero un colpo molto forte per una zona già provata, ma soprattutto che ha lasciato dietro di sé una forte sensazione di rabbia, ancora di più rispetto al terremoto. Io ero stata qui ancora anche quando c'era stato quel terremoto, ma stavolta la rabbia è maggiore, perché questa alluvione tutti dicono poteva essere evitata, perché non si tratta di un fiume, non è il Danubio, non è il Volga, ma è un fiume Secchia, per di più abbastanza distante qui da Bonporto, che invece ha degli altri fiumi più vicini, e le persone che abitano più vicine agli argini del fiume parecchie volte avevano denunciato lo stato di incuria di questi argini, e queste denunce ora sono state allegate anche agli esposti che le varie persone, i vari comitati che si sono formati hanno presentato alla magistratura, proprio perché è sotto accusa quello che l'autorità del bacino, l'AIPO, fa o non fa, considerando che tutte queste imprese aderiscono con propri contributi al consorzio delle bonifiche proprio perché tenga nel dovuto stato, diciamo, queste argini che sono state la causa di un'alluvione che così forte in un territorio che pure era stato già colpito dalle alluvioni nessuno ricordava. Allora, un primo computo dei danni lo ha fatto oggi il direttore di Confindustria Modena, al microfono il nostro Simone Spezia. Danni alle imprese complessivamente dati, fermo restando che sono ancora provvisori. Lui è Giovanni Messori, direttore della Confindustria Modena. Noi abbiamo lì circa una trentina di imprese industriali colpite dall'alluvione e sicuramente i danni sono superiori ai 10 milioni, anche perché l'acqua ha stazionato alcuni giorni ed è defluita solo ultimamente. Solo a Bonporto o in tutta l'area colpita dall'alluvione? Naturalmente le aziende sono molto di più, queste sono le nostre associate, la regione in questo momento attraverso delle schede che ha pubblicato sui propri portali sta facendo la stima dei danni complessivi. La maggior parte delle aziende è proprio a Bonporto. Abbiamo letto nei giorni scorsi che ci sono una serie di aziende che stanno cercando di intentare una sorta di class action, Messori, nei confronti, immagino, non si sa per il momento, un mandato esplorativo ad un avvocato di chi ha gestito tutto questo, di chi ha gestito il territorio. Che cosa ne pensate? Noi su questo punto parleremo con le aziende, vedremo. In questo momento la cosa più importante è ripartire con una burocrazia che speriamo sia molto più semplice rispetto a quello che è stato ed è col terremoto. Il Presidente della Regione ha dichiarato che i danni verranno rimborsati al 100%, questo è importantissimo. È chiaro che il fatto che in un rettilineo a 100 metri di argine si sbriciolino come neve al sole ci fa riflettere, dovranno essere valutate le responsabilità e con calma valuteremo se sarà opportuno o meno dire anche le vie giudiziarie. Ultima domanda che le faccio, Messori, voglio capire se chiedete una sospensione di tributi per le aziende colpite. Guardi, la sospensione per 6 mesi è già stata decretata, è un termine assolutamente insufficiente, come è avvenuto per il terremoto, poi io auspico verrà prorogato ulteriormente, ma questa gente che è stata colpita 2 volte così violentemente in poco tempo non merita di rimanere nell'incertezza. Bastava dire che la proroga è almeno per 1 anno e bastava anche dire che si sta lavorando anche a una moratoria dei mutui. Così direttore di Confindustria Modena. Raffaella, tu hai raggiunto anche altri imprenditori, chiaramente non possiamo farli ascoltare tutti, però Raffaella. Sì, io ho fatto un giro in tutta quanta la zona, sia questa industriale di Bonporto che in quella più piccola, sono soprattutto le realtà medio-piccole quelle che stanno in questo momento in sofferenza principale. Nel centro proprio di Bonporto come di Bastiglia ci sono dei piccoli commercianti che non sono neanche sicuri di riaprire, tanti sono i danni, ma c'è chi è particolarmente arrabbiato e pensa, ipotizza anche uno sciopero fiscale, come ad esempio Maurizio Barbi, che è il titolare di una serigrafia di Bonporto, la Serilem, sentiamolo. Abbiamo avuto danni seri sia come macchinari che come anche produzione. Vanno dai 25, 30 ai 50 mila euro. Non immaginavamo una cosa del genere qua dentro. Praticamente tutti gli impianti elettrico basso, tutte le schede elettroniche che abbiamo nelle macchine sono tutte da cambiare, fermi macchina, e adesso contiamo andare lunedì di essere operativi al 70%. E di riprendere a lavorare. Sì. Poi sicuramente sono state perse delle commesse perché alcuni clienti ci hanno dato la possibilità di pensarci noi curando il lavoro esterno, altri invece hanno preso il materiale e sono andati da altre parti. Quindi una commessa in meno per una realtà medio-grande, medio-piccola? Insomma. Medio-piccola e già colpita dalla crisi, diciamo. Perché... E dal terremoto? E dal terremoto. Questo chiaramente fa particolarmente rabbia, perché forse un'alluvione si potrebbe anche evitare. Sì, sì, questo qui si poteva evitare, come al solito danno la colpa alle nutrie, come dicono, ma bisognerebbe mettere a posto gli argini e nessuno ci pensa. Ecco, però voi qui tutti quanti si paga un consorzio per mantenere... Sì, esatto, noi paghiamo, ma alla fine i lavori non vengono fatti, come in Italia succede per tante cose. Ho capito, però poi adesso siete voi a fare i conti col fango dappertutto e con le conseguenze di questa alluvione, con le commesse che si perdono, insomma siete arrabbiati? Sì, molto arrabbiati. Io avrei... non è un'idea, però può darsi anche che lo faccia, non si sa, però lo sciopero fiscale. 50.000 euro di danno, 50.000 euro me li sconto dalle tasse. Bisognerebbe che seguissero tutti l'esempio. Raffaella, un altro, siamo un po' in ritardo, un ultimo contributo ce l'hai ancora di altri imprenditori sempre della zona di Bonporto? Sì, io ne ho sentiti veramente tanti, devo dire. Ad esempio il presidente della Dynamic Oil, Carlo Alberto Montecchi, che anche lui faceva proprio un calcolo sui danni ricevuti e sul fatto che queste potevano essere un danno, diciamo, che si poteva tranquillamente evitare con un po' di previsione, ed è quello che adesso tutti quanti chiedono. Sentiamolo. Il problema più grave ora è quello di accontentare i nostri clienti, nel senso di dare loro dei programmi di consegna affidabili in modo che possano programmare poi i loro impegni. Sicuramente è stato un momento molto, molto difficile, un momento in cui in certi momenti abbiamo anche pensato così di perdere l'attività in quanto i tempi di recupero potevano essere molto lunghi. Per fortuna i nostri dipendenti sono dimostrati molto attivi, disponibili, siamo entrati subito dopo due giorni con un centinaio di persone a pulire con tutti i mezzi di fortuna, insomma siamo riusciti a ripartire, oggi siamo al 60% circa della produzione, della possibilità produttiva dell'azienda e nel giro di 3-4 giorni dovremmo essere al 100%. Allora, ultima parte di Focus Economia. Da un lato continuano le tensioni sull'Argentina, tant'è che oggi Moody's dice la svalutazione del peso non è sufficiente, occorrono anche misure per ridurre l'inflazione, nonostante il governo Kirchner poi ha specificato a chi permetterà l'acquisto di dollari, massimo 2.000 dollari per chi guadagna almeno 7.200 pesos al mese. Resta invece sorpresa al 35% il livello di tassazione per gli acquisti eseguiti con carta di credito all'estero, che è una cifra non si può sentire. In Turchia, nuovo minimo storico della lira turca sul dollaro, sulle incertezze politiche e i rischi su tutti i paesi emergenti che stanno scontando forti rischi, c'è un effetto contagio anche in Grecia. Dall'altra parte abbiamo invece la Federal Reserve che ha deciso, diciamo, di far partire, come ho detto, tra domani e dopodomani, una nuova riduzione degli acquisti di titoli di Stato, e cioè il modo in cui la Banca Centrale Americana stampava soldi era: il governo emetteva titoli di Stato, la Banca Centrale li comprava stampando dollari. La cifra era intorno agli 85 miliardi, si è già scesi a 75 miliardi, potrebbe scendere a 65 miliardi di dollari al mese. Chiedo a Alessandro Praterotti, che ne ha scritto sul Sole 24 Ore, di cui è anche vice direttore. Buonasera Alessandro. Buonasera a voi. Pesa più Argentina, paesi emergenti, Turchia, Grecia o il tapering americano sulle tensioni che vediamo sui mercati? Ma premesso che sono due fattori collegati, nel senso che proprio l'avvio del tapering, cioè i minori aiuti di supporto monetario al sistema bancario, ha scatenato queste diciamo così, turbulenze sui mercati emergenti. Per quale motivo? Perché gran parte di questi soldi che la Federal Reserve dà alle banche finivano sui paesi emergenti, investiti là. Il ragionamento del mercato qual è? Tagliano gli aiuti e escono i soldi dai paesi emergenti, quindi ritirano. Per questo hanno messo quei limiti e diciamo così, quei provvedimenti per scoraggiare la fuga di capitali in Argentina e negli altri paesi. E quindi abbiamo detto sono collegati, però in realtà quello che sta spaventando i mercati, ed è questa la vera reazione, quello su cui bisogna riflettere in questo momento, è la reazione in quei paesi emergenti all'avvio della crisi finanziaria, queste tensioni finanziarie. I mercati, e devo dire secondo me nemmeno la Federal Reserve o le istituzioni internazionali, avevano valutato bene quale sarebbe stato l'impatto dei minori aiuti sui paesi emergenti. Tutti pensavano, in realtà è un fatto finanziario, si ritirano un po' di investimenti, la borsa cadrà, però finisce lì. In realtà che cosa vediamo? Scontri di piazza, tumulti, governi in bilico. Cioè quello che sta facendo più paura è la conseguenza del ritiro di questi soldi degli americani dei paesi emergenti in sistemi che non hanno fatto né riforme, cioè loro hanno beneficiato dei flussi di denaro che arrivavano senza minimamente cambiare le regole del gioco e rafforzarsi. E adesso qual è il risultato? Che con i minori soldi cadono i mercati finanziari in quei paesi e la gente scende in piazza e poi fa le barricate. Questo è quello che spaventa, le tensioni socio-economiche e soprattutto sociali che stanno esplodendo come fallout di questi eventi. Quindi, chiarissimo il ragionamento per cui se la banca americana stampa meno liquidità, stampa meno dollari, e le banche americane che ne beneficiavano in primo luogo ritirano i soldi che avevano investito nei paesi emergenti per andare su valute più sicure. Sì, su rifugi più sicuri. Quindi, però il problema qual è? Questo era un processo scontato, sapevamo tutti che sarebbe finito. Allora, però quello che è stato sottovalutato fortemente è stato l'impatto sulla gente. Cioè qui si pensava che basta ritirare un po' di soldi dai mercati emergenti per rimetterli in posti più sicuri, vabbè. Problema di tensioni finanziarie che passa. No, qui veniamo da anni di crisi, parliamo di economie che sono state sempre precarie e che non hanno fatto nulla in questi anni, che hanno beneficiato dei soldi della Federal Reserve per rafforzarsi. Questo deve essere di monito, a mio avviso, per tutti. Anche per l'Italia, infatti. Anche per l'Italia. Noi siamo fortunatamente più in grado di gestire queste tensioni sociali in questo momento. Sì. Ma se guardi come la Banca loro, d'Italia oggi è come loro, quello che ha fatto riflettere me, quello che fa riflettere un po' tutti, è questo: che come i paesi emergenti, l'Italia rischia di navigare a vento. Se il vento è positivo andiamo avanti, ma se i venti diventano contrari, non solo si torna indietro, ma si rischia di avere quegli scontri, quelle tensioni sociali così gravi che spaventano persino i mercati finanziari. Ecco, le previsioni sul fronte valutario in questo momento, perché abbiamo visto la cosa spostarsi sì dall'Argentina anche alla Turchia con un aumento dei rendimenti dei titoli di Stato in Grecia. Per ora non ci aspettiamo che vi possa essere un effetto contagio sull'area euro. Ma diciamo, l'effetto contagio da che cosa deriva? Deriva da queste paure che stanno emergendo lì, cioè se veramente, questo è la fine degli stimoli monetari delle banche centrali, suscita questo tipo di reazioni così violente, perché noi parliamo, quello che sta creando la situazione sono gli scontri di piazza, la paura, certo, di insurrezioni e così via. Ecco, che cosa può succedere in Europa se dovesse esserci un nuovo giro di vita, ad esempio, perché salgono i tassi italiani, spagnoli o greci? E soprattutto, ripeto, i mercati che cosa dicono? Qui non è soltanto questione di quanti soldi arrivano, ma di quanto è pronto un paese a sostenere un nuovo shock. Allora, io so già la battuta che infatti vedo, ma noi tanto gli aiuti della BCE alle banche non li abbiamo visti come imprenditori, come cittadini. Sì, li hanno visti le banche, noi questo spesso lo critichiamo, ma li hanno visti le banche, quindi il tema comunque resta e c'è tutto, perché è vero che gli imprenditori hanno visto restringersi il credito e anche le famiglie, però le banche hanno molto beneficiato degli aiuti dati da Mario Draghi in questi mesi, Alessandro. Sì, è assolutamente così, ha ragione anche chi scrive, dice noi in fondo non li abbiamo visti, è vero che non li abbiamo visti, ma per quale motivo? Perché purtroppo è stata, diciamo così, un'operazione che doveva essere di riequilibrio dei bilanci delle banche, cioè aiutare le banche, è stata presentata probabilmente al pubblico, compresi noi, perché queste erano le cose che dicevano, come un'operazione per aiutare l'economia, quando in realtà abbiamo messo in condizione le banche di risanarsi i propri bilanci. Io oggi vedevo che addirittura JP Morgan pagherà un bonus di 30 milioni di dollari all'amministratore delegato, quindi parliamo di grandi banche americane che hanno preso anche loro i soldi della banca. Beh, Jamie Dimon si è beccato un altro mega bonus. Esattamente, 37 milioni di dollari di bonus a fine anno per JP Morgan. Ora, per le banche, per le altre banche, certamente non sono quelle europee, non ci sono cifre così grandi, ma nel loro piccolo anche loro che hanno fatto? Hanno rimesso a posto i propri bilanci, li hanno rafforzati, hanno pagato le cedole ai propri azionisti. Ma all'economia quanto è andato? Chi è che vigila su questo? Noi abbiamo detto tutti, i soldi della BCE serviranno per arrivare all'economia, no. Così non è stato. Non è stato perché si sono fermati nelle banche, di questo abbiamo già parlato molte volte, ma torneremo sul tema, vedremo domani da quello che hanno detto i nostri ospiti in questi giorni. Queste tensioni proseguiranno anche nei prossimi giorni. Noi saremo qui a raccontare, speriamo di raccontare altre cose, non solo di queste tensioni, ma intanto grazie a Alessandro Praterotti, grazie da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.